Letture di Radio 24. Mentre Papa Francesco minimizza sugli attentati islamici e invita all'accoglienza e al dialogo anche con chi non vuole dialogare, in una piccola città dell'Ungheria l'arcivescovo Gyula Murphy lancia un allarme. Il fatto che adesso ci sia una pressione così forte sull'Europa non è un caso. Dietro c'è una volontà di conquista, dice il vescovo, che in una recente intervista invita Bruxelles a riscoprire le proprie radici cristiane per non consegnare l'Europa all'Islam. Se buttiamo via tutto questo, non ci resta niente, avverte. La nostra cultura perde il suo senso. Secondo l'arcivescovo Gyula Murphy, il vero problema dell'Europa è l'abdicazione ai nostri valori morali. In questo caso, spiega, la sessualità, l'amore, l'affetto e la vita si distaccano gli uni dagli altri e si crea non solo un vuoto ideologico, ma anche demografico. Vuoto che viene colmato dai migranti e in modo particolare dai musulmani. Non ho mai disonorato i musulmani, ma la loro morale è completamente diversa dalla nostra, precisa l'arcivescovo. Quello che per noi è un peccato, per loro è una virtù. Ciò che secondo noi non è una colpa così grave, per loro è un peccato mortale. E fa un esempio. Per i musulmani ingannare un miscredente è un atto particolarmente buono. Dobbiamo considerare questo senza giudicarli, continua. E se uno vuole fargli del male, neanch'io li odio, anzi, gli voglio bene e li rispetto. Prego per loro tutti i giorni. Non è colpa loro se vogliono occupare l'Europa, ma è colpa nostra, continua l'arcivescovo. Nell'intervista Murphy fa notare che il jihad impone ai musulmani di espandersi nel mondo. Sono infatti chiamati a rendere all'Islam, cioè al territorio islamico, la maggior parte della terra, introducendo la Sharia. Il fatto che adesso c'è una pressione così forte sull'Europa non può essere un caso, ma certamente c'è una volontà di conquista, spiega. Per questo li appoggiano le banche arabe. Non li fanno entrare in Qatar o negli Emirati Arabi Uniti, ma gli danno i soldi e li incitano ad emigrare da noi. Per l'arcivescovo ungherese, l'immigrazione non ha solo cause, ma anche scopi, come per esempio la destabilizzazione dell'Europa e dell'Eurozona. A Papa Francesco, che in più di un'occasione ha spiegato che nell'immigrato cacciato c'è Cristo, l'arcivescovo Murphy replica usando le parole di Gesù, che disse «Siate miti con le colombe, ma anche siate intelligenti come i serpenti». Solo perché vogliamo bene ai lupi, in quanto creazioni di Dio, non li facciamo entrare tra le pecore, anche se arrivano in veste di pecore, conclude. Al Santo Padre non conviene dichiarare certi pensieri in maniera forte, perché allora i musulmani possono vendicarsi sui cristiani del Medio Oriente. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Sergio Rame, Accogliere i migranti islamici? Non invitate i lupi tra le pecore. Da Il Giornale del 2 agosto. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Letture di Radio 24. In Italia chi mente non viene mai punito in modo adeguato, come dimostra la recente sentenza della Corte d'Appello che condanna a pene minime i cosiddetti imbroglioni dell'autocertificazione. Ma questo non significa che l'autocertificazione debba essere abolita, scrive Gian Antonio Stella in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera. Anzi, al contrario, andrebbe rilanciata. Così fan tutti. È questa la motivazione della sentenza d'appello che condanna a pene ridicole gli imbroglioni, bidelli, mezze maniche, agenti di custodia, che con un'autocertificazione falsa, dove giuravano d'aver fatto i magistrati o di avere una laurea, erano riusciti a farsi inserire nel CDA dell'ASI di Agrigento, ottenendo così i preziosi trasferimenti vicino a casa e altri benefit ai danni dei colleghi. 2 settimane di cella o 3.750 euro di multa. Il minimo del minimo del minimo. Testuale. Tenuto conto del contesto in cui tale falsa dichiarazione venne sottoscritta, della pregressa situazione di acquiescenza da parte della pubblica amministrazione a una situazione caratterizzata da mancato rispetto delle fonti normative. Insomma, chi aveva mai rispettato la legge? In primo grado il GIP era andato oltre, assolvendo gli impostori. Non avevano dichiarato il falso con scritture autonomamente predisposte dagli interessati, frutto di personale meditata elaborazione, ma previa sottoscrizione a critica di modelli prestampati, recitava la sentenza. Disonesti, ma sovrappensiero. La Procura Generale di Palermo ha fatto ricorso. Bene, ma non basta. Quei verdetti, che con il loro lassismo stupefacente incoraggiano tutti i truffatori a provarci, sono solo l'ultima prova dell'assoluta necessità di cambiare le regole, e in fretta. Nata sotto i migliori auspici nel 97, quella legge, nelle intenzioni sacrosanta per sveltire pratiche affondate nelle scartoffie, ha mostrato infatti negli anni, purtroppo, limiti enormi. Ricordate? Quasi 2 universitari ogni 3 beccati negli Atenei romani per essersi dichiarati falsamente nullatenenti, tra i quali la figlia del proprietario di una villa con piscina che girava in Ferrari. Illeciti di massa alla Bicocca, dove, citiamo il direttore generale, circa 5.000 matricole nel 2012 non pagavano la seconda rata. L'anno dopo, saputo delle ispezioni, il numero degli esenti è sceso a 500, un crollo del 90%. E falsi medici al lavoro nelle strutture pubbliche con una laurea solo autocertificata. E poi avvocati per anni ciondolanti di causa in causa nei tribunali senza essere mai diventati dottori in giurisprudenza. Fino ai casi estremi come quello di Lesina in Puglia, dove un paio d'anni fa si scoprirono 56 false docenti di sostegno, sparpagliate come supplenti per mezza Italia, a fare quel lavoro delicatissimo con bimbi e ragazzi disabili, grazie a decine di autocertificazioni false, accompagnate da altri documenti manomessi. Indimenticabile una deposizione. Ero stanca di fare la pizzaiola, così ho dato all'organizzatrice 14.000 euro e lei mi ha dato la laurea. I moduli erano già compilati, bastava presentarli. Ma come dimenticare le autocertificazioni di decine di milanesi che nel 2014, per non pagare l'ingresso all'area C, dichiararono nuove residenze anagrafiche in centro, tra cui Piazza della Scala 2, cioè Palazzo Marino, sede del comune, e gli allevatori sardi, che dichiarando di avere 910 cavalli, ne possedevano 8, riuscirono a farsi dare in uso civico 1.500 ettari di terreni pubblici e le 73 palazzine senza fondamenta e totalmente abusive a Casalnuovo di Napoli, vendute dal notaio sulla base di un'autocertificazione falsa che garantiva fosse tutto in ordine per il condono, e le migliaia di buoni bebè date a chi non ne aveva diritto, e i 321 dipendenti comunali di Napoli, seguiti da tanti altri a Taranto, che si erano auto-aumentati la busta paga, autocertificando di avere a carico nonni, zie e cugini, e i 96 tassisti romani che dichiararono il falso per avere il rinnovo della licenza nonostante la fedina non candida. Sono 906 i casi di autocertificazioni false ai quali l'ANSA ha dedicato negli anni articoli. 906! E in certi casi, come le esenzioni sui ticket sanitari, si citano centinaia di dichiarazioni truffaldine, al punto che nel 2011 la stessa agenzia citava stime impressionanti. 1 miliardo di euro l'anno di evasione. Lo stesso scandalo della carica dei 104, l'abuso d'una norma giusta come la legge 104 che offre agevolazioni ai parenti per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei disabili, ha origine spesso da dichiarazioni dove il furbo sostiene di essere costretto ad assistere un figlio, una sorella, un suocero non autosufficiente. Poi, come spiegò mesi fa l'inchiesta agrigentina aperta da Ignazio Fonzo, arrestando 10 medici, seguono pratiche e complicità ulteriori. Il primo passo, però, è quella dichiarazione falsa. E qui è il guaio. Chi mente non viene mai punito in modo adeguato. Mai. Una prova? A dispetto delle inchieste e degli accertamenti, un comunicato degli insegnanti in movimento accusava lo scorso 30 luglio Nella provincia di Agrigento, 53 su 53 degli spostamenti nelle primarie, appena comunicati dalle autorità scolastiche, sono avvenuti usando ancora la 104. Tema: l'autocertificazione va abolita? No. In un paese dove il cittadino annaspa tra le scartoffie, va addirittura rilanciata, purché, proprio per salvaguardare le persone per bene, gli imbroglioni vengano colpiti duro, con pene esemplari. Sei secoli fa, la Carta de Logu di Eleonora d'Arborea concedeva ai sudditi di presentare agli uffici giudiziari carte bollate e non bollate e altre scritture autentiche registrate o non registrate. Se una carta fosse risultata falsa e usata fraudolentemente sapendo che è falsa, però, l'autore doveva essere arrestato e messo in prigione. Quanto all'avanuense che aveva prodotto il documento, doveva pagare entro un mese una multa stratosferica e se non la pagava, gli sia amputata la mano destra. Per carità, era troppo. Anche il lassismo, però... E quello che avete ascoltato era l'articolo di Gian Antonio Stella, Il castigo inesistente, dal Corriere della Sera del 1 agosto. Il dibattito sul tema dell'utero in affitto divide da tempo intellettuali e politici italiani. A favore si sono schierati ad esempio le scrittrici Michela Murgia e Dacia Maraini e l'oncologo Umberto Veronesi. Tra i contrari, la giornalista del Corriere della Sera, Marina Terragni, che dopo la pubblicazione del suo libro Temporary Mother, utero in affitto e mercato dei figli, è stata coperta di insulti e accusata di omofobia. Ma come sottolinea Paola Tavella in un articolo pubblicato su Io Donna, il successo del libro della Terragni è dovuto proprio alla sua capacità di liberarsi dall'accusa che avversare la trasformazione delle donne in mezzi di produzione e dei figli in merce significhi schierarsi contro l'omogenitorialità maschile o il desiderio delle coppie sterili. La Terragni è invece favorevolissima alla genitorialità gay, ma difende un'ovvietà. Il neonato non può fare a meno del corpo di sua madre, della sua origine, della sua storia umana. Quando questo avviene, per disgrazia, cerchiamo di trovare rimedio, ma nella surrogacy il danno viene organizzato. Così la Terragni giudica un equivoco qualificare quella pro-surrogacy come una opinione di libertà e quindi progressista. La libertà, scrive, non va scambiata con una sorta di dirittismo, come se desiderare un figlio equivalesse al diritto di comprarlo e scavalcare a suon di dollari i veri diritti, quelli scritti nella Dichiarazione dei diritti umani e dei fanciulli. La Terragni racconta le condizioni atroci in cui le fabbriche di bambini costringono le fattrici in Nigeria, in India, in Nepal, in Ecuador, dove l'80% di quelle che si prestano sono analfabete e non leggono il contratto. Ricchi occidentali pagano per trasferire in una donna di colore l'ovulo fecondato comprato da una donna dell'Est Europa o da una brillante studentessa americana che non riesce altrimenti a pagarsi gli studi, in modo che il figlio nasca bianco. Anche in California o in Ucraina i contratti sono scritti per garantire i clienti, non certo la lavoratrice che accetta ogni sorta di prescrizione e restrizione, che può essere costretta ad abortire, partorisce davanti ai clienti e non può toccare la figlia o il figlio, tanto che dopo la nascita molte vengono sedate di routine per evitare incidenti. Alcune di queste donne dichiarano di voler aiutare le coppie sterili, oppure si sentono investite da una missione umanitaria come se il denaro non c'entrasse. Così, la mistica della maternità, l'oblatività, il sacrificio femminile vengono rimasticati e riproposti come strumento di propaganda per fare un sacco di soldi. E solo una minima parte va alle fattrici, il resto tocca a mediatori, agenzie, avvocati, medici. Allora, dice la Terragni, chiedere l'abolizione universale dell'utero in affitto non significa soltanto contrastare il nuovo feroce volto del patriarcato e il mercato che divora tutto, ma difendere un punto irrinunciabile di civiltà che ruota intorno al riconoscere e rispettare la differenza sessuale, il cuore della natura umana. Cancellare la maternità e la relazione fra madri e figli significa mettere in dubbio tutta la nostra civiltà. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paola Tavella, Ma utero in affitto non vuol dire libertà, da Io Donna del 23 luglio. Premesso che ho un debole per i suoi giochi di parole e l'arguzia di certe sue rime. Arrividi portando brividi e scappi lasciando lividi. Mi domando perché un giovanotto avveduto come Fedez abbia avvertito il bisogno di mostrare al mondo intero tramite Facebook le foto della propria piscina scavate in cima a un grattacielo che già per il solo fatto di trovarsi a Milano non potrà che essere esclusivo. Molti seguaci del cantante che parla lo hanno tacciato di incoerenze. Se fai soldi criticando il capitalismo, poi dovresti evitare di ostentarne i simboli. Più in generale, le foto hanno prodotto il solito conato di invidia sociale, che non è uno dei tratti della nostra epoca, ma di tutte le epoche. Specie in questo paese ipocritamente cattolico, che non ha mai considerato la ricchezza un premio di cui vantarsi, ma un privilegio di cui vergognarsi. Il web non ha inventato l'invidia sociale, però ha sancito la fine del divismo. Una divinità è tale finché abita su un Olimpo inaccessibile, mentre il web è l'esatto contrario dell'Olimpo. Rende orizzontale ciò che un tempo era verticale, perciò i veri divi se ne tengono alla larga. Il web è la terra, e quando un divo scende sulla terra, ci trova gli esseri umani, armati di vaffa. Il giusto peso, quello che viviamo, ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei, ma non posso. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Massimo Gramellini, Il Galattico, dalla stampa del 3 agosto. Oltre che per le polemiche derivate dall'ostentazione del suo superattico, Fedez è tra i protagonisti di quest'estate anche per il tormentone Vorrei ma non posto, cantato assieme a J-Ax. 20 anni fa, invece, protagonisti assoluti di quasi tutte le estati erano gli 883, che secondo Edmondo Berselli rappresentavano un'operazione sociologica, magari irritante, ma irrilevante proprio no. Possibile che nessuno abbia sospettato che rappresentino quel pezzo d'Italia che viene su fino a noi dagli anni 50, continua Berselli. Come scrive Andrea Scanzi in un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano, nel suo libro Canzoni del 1999, Berselli teorizzò come nessuno, come gli 883, fosse bravo a raccontare quello strano presente. 7 anni prima, gli 883 avevano ottenuto il successo immediato con l'album d'esordio Hanno ucciso l'uomo ragno. Nel 1993 bissarono il trionfo con Nord-Sud-Ovest-Est. Il disco, oltre alla title track, contiene anche Sei un mito e Come mai. Saranno i tormentoni dell'estate del 93 e domineranno Festival Bar, World Music Award e Festival Italiano. Al tempo, gli 883 erano ancora una coppia. Il primo, Max Pezzali, faceva tutto. Il secondo, Mauro Repetto, ballava e basta. E ballava pure male, peraltro. Pezzali ha più volte raccontato come, senza Repetto, non avrebbe mai avuto il coraggio di esporsi. Negli anni, Repetto inseguirà un'attrice a Los Angeles, finirà i soldi e si reinventerà manager a Euro Disney, nonché attore impegnato nei teatri off parigini. Una storia felicemente incredibile. Dal canto suo, Pezzali non smarrirà mai la bussola, e neanche il successo. Negli anni, oltretutto, molta critica darà ragione alla provocatoria intuizione di Berselli. Nord, Sud, Ovest, Est conteneva già molte cifre pezzaliane, la provincia, l'epica quotidiana, il gergo giovanile, il gusto per il bozzetto e una certa tendenza alla sfiga generazionale. Nord, Sud, Ovest, Est, e forse quel che cerco neanche c'è. Nord, Sud, Ovest, Est, starò cercando lei, o forse me. Quello che avete ascoltato era l'articolo di Andrea Scanzi, è il 1993 e gli 883 diventano operazione sociologica, da Il Fatto Quotidiano del 2 agosto.